Conclusione di questa grande manifestazione, di questa grande marcia popolare qui in Val di Susa. Siamo adesso a San Didero, dopo una marcia di diversi chilometri che è partita, ricordiamo, alle 14.30 da Bussoleno, e adesso ci stiamo dirigendo verso il polivalente di San Didero, dove ci sarà appunto un pranzo benefit per le popolazioni interessate di Amatrice, dove appunto le brigate di solidarietà attiva insieme agli abitanti della Val di Susa stanno preparando questa amatriciana popolare, così intanto da sfamare il corteo dopo questa lunga camminata. Una giornata, ricordo, veramente partecipata qua in Val di Susa, nonostante una pioggia battente, almeno 10.000 persone hanno animato questo corteo, e tante le delegazioni venute da Italia che hanno veramente rappresentato bene la geografia delle lotte di questo paese. E compagni e compagne che hanno macinato chilometri dal Salento, e appunto esponenti delle popolazioni terremotate da Amatrice, da Macerata nelle Marche, la lotta contro le grandi navi di Venezia, le delegazioni dagli altri movimenti no TAV, Terzo Valico che appunto invitava tutti e tutte alla manifestazione che si terrà il 27 maggio ad Alessandria contro appunto la costruzione del Terzo Valico tra Torino e Genova, delegazioni di Notav della tratta Brescia-Verona, per cui veramente una manifestazione eterogenea dove il movimento Notav si è mostrato ancora una volta luogo aperto, ospitale per le tante lotte. E appunto arriviamo adesso alla conclusione di questa giornata, magari proveremo di nuovo a costruire un collegamento più avanti per farci raccontare come hanno vissuto questa giornata e anche persone che per la prima volta partecipavano a una mobilitazione come questa, persone provenienti appunto dai territori terremotati di Amatrice e di Macerata, che stanno appunto insieme ai valligiani costruendo questo pranzo per tutti e tutte coloro che hanno partecipato al corteo. Ancora una volta movimento Notav che mostra i muscoli, movimento Notav che ci dice chiaramente che continua a non volere quest'opera. Io ricordo che si apre una nuova stagione per questa lotta, poiché nei prossimi mesi sono attese le aperture di nuovi cantieri nella Bassa Valle, in luoghi dove finora diciamo la crudeltà di quest'opera, la sua invasività non si era ancora fatta sentire. Inizieranno nuovi espropri, per cui appunto da un lato bisogna essere determinati, da un lato nuove frontiere di lotta si aprono in questo resistente, per cui ancora una volta la Val di Susa ci proverà in questo modo a insegnare cosa vuol dire la resistenza e cosa vuol dire opporci alle grandi opere, tant'è che appunto lo slogan di oggi, che suona come una promessa, è quello: ci siamo, c'eravamo, ci siamo e ci saremo, e sicuramente questa è una bella promessa che il movimento Notav fa a politici, a governanti, a giornalisti, ai poliziotti che pensano di pacificare questo territorio. Bene. Ci puoi portare anche i saluti e la solidarietà di anche un'altra grandissima manifestazione che si sta svolgendo in questo momento anche a Roma, molto partecipata, a differenza della Val di Susa, voi sotto il diluvio, qui sotto un sole caldo, si sta sfilando il corteo per le strade di Roma contro la speculazione, contro questa giunta che non mi sembra molto attenta ai problemi sociali. È molto partecipata, puoi portare anche da questa città, come si dice a Val di Susa, si parte insieme, si torna insieme. E penso che si possono gemellare le due giornate, insomma, ecco. Sicuramente sono due giornate che parlano lo stesso linguaggio, il linguaggio. Ci siamo e ci saremo pure qua. Bene, sì, se ci sono altre novità, aspetto comunicazione, se è possibile, magari fa parlare qualche esponente di qualche realtà venuta a partecipare a questa iniziativa. Ci proviamo. Un abbraccio a tutti, grazie, a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Sì, ciao, grazie.